Sura del paese. Capitolo 90 del sublime Corano, rivelata alla Mecca, consta di 20 ayat ed è scesa dopo la Sura 50. Qaf. Nel nome di Allah il sommamente misericordioso e il clementissimo. Io, Allah, lo giuro su questo paese, la Mecca, e tu di questo paese sei figlio. Lo giuro su un genitore, Adamo, e su ciò che ha generato gli uomini. L'uomo noi lo abbiamo creato in sofferenza. Crede egli forse che nessuno avrà potere su di lui? Egli dice, ho gettato via ricchezza in gran quantità. Crede egli forse che nessuno lo vede? Forse che non glieli abbiamo dati noi due occhi e una lingua e due labbra? Noi gliele abbiamo indicate le due vie, però non ha affrontato la Aqaba. Lo sai che cosa è la Aqaba? È la liberazione di uno schiavo, oppure il cibare in un giorno di carestia un parente orfano, oppure un povero bisognoso. Così facendo, l'uomo entra nel novero di quelli che credono, si raccomandano gli uni gli altri la pazienza e si raccomandano gli uni gli altri la misericordia nelle loro relazioni. Sono i compagni della destra. Coloro che invece rifiutano di credere ai nostri segni sono i compagni della sinistra, che saranno avvolti da un fuoco infernale che si chiuderà su di loro.